protagonista, ma resta altro da fare. E Monti ribadisce di fronte alla stampa straniera: abbiamo tenuto presente il valore dell'equità, adesso ci sostenga il Parlamento. Alle 16 si presenterà la Camera, alle 18 in Senato. La strage di Novi Ligure, Erika presto libera, Domar scrive speculi sulla mia famiglia. La città in cui si vive meglio in Italia è Bologna, salgono Roma e Milano, il sud in fondo alla classifica, le peggiori sono Foggia, Caltanissetta e Napoli. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Tirano dunque un sospiro di sollievo questa mattina i mercati dopo la presentazione del cosiddetto decreto Salva Italia, e lo spread, l'avete sentito anche nei titoli, scende sotto i 400 punti. Da qui dunque che ripartiamo in questo GR24 e lo facciamo in diretta con Deborah Rosciani. Sì, la discesa inarrestabile è iniziata questa mattina subito in avvio di contrattazioni sui mercati finanziari, con lo spread che appunto era scivolato intorno ai 420 punti base, poi in tarda mattinata addirittura al di sotto della soglia dei 400 punti, fino a 395, livelli che non si vedevano dalla fine di ottobre. In novembre ce li siamo completamente dimenticati, perché non solo siamo sempre stati abbondantemente al di sopra di questa soglia, ma siamo sempre stati abbondantemente sopra la soglia dei 500 punti base. Lo ricorderete, i titoli decennali appunto hanno sfondato anche il livello di rendimento superiore al 7%, un livello appunto considerato molto preoccupante, che per qualcuno addirittura era individuato come quella soglia critica che in automatico appunto determinava una richiesta di aiuto finanziario internazionale appunto per l'Italia. Adesso siamo ben al di sotto di questi livelli, il rendimento del titolo decennale è intorno al 6,13%, quindi livelli davvero bassi che vengono appunto apprezzati dal mercato anche dal punto di vista azionario, perché chiaramente questi livelli fanno volare i titoli del settore bancario e portano su Milano del 2,50% sul FTSE MIB, condizionando positivamente anche le altre piazze europee, che sono in rialzo ma in misura molto inferiore rispetto a Milano. Per esempio Francoforte e Londra guadagnano appena mezzo punto, Parigi più 1,20, Milano ribadisco più 2,48. I migliori titoli Banca Monte dei Paschi guadagna 12,5 punti, Azimut più 7, Banco Popolare più 7, 5,5 punti per Finmeccanica, più 4,5 punti per Unicredit, l'altra big bancaria Intesa San Paolo è più 3,62%. La settimana parte dunque bene, per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Le decisioni prese dal governo italiano vanno decisamente nella direzione giusta, perché non guardano solo al consolidamento di bilancio ma anche alle riforme strutturali, a cominciare da quella delle pensioni, ma ancora molto resta da fare, in particolare sul mercato del lavoro. Questo è il commento del portavoce del commissario Olli Rehn, ribadendo quanto dichiarato nella notte dallo stesso Rehn. Non vuole commentare invece, entrando nel merito, il capo dello Stato Napolitano. Ascoltando ieri in conferenza stampa interventi dei rappresentanti del governo, però detto Napolitano, ho colto un impegno, una fatica e una tensione morale per cui esprimo molto rispetto. Giornata di chiarimenti, di spiegazioni invece per Mario Monti. Oggi il Presidente del Consiglio sarà alle 16 alla Camera, alle 18 in Senato. Questa mattina per lui l'incontro con la stampa estera, ed è da qui che ripartiamo in diretta con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Mario Monti decisamente disteso e soddisfatto quello che sta illustrando alla stampa estera la manovra approvata ieri sera dal governo. Abbiamo fatto la nostra parte, questa è una settimana cruciale per l'euro, ha detto Monti facendo riferimento al prossimo Consiglio europeo, ed ancora, senza questo pacchetto l'Italia crollerebbe come la Grecia. Quindi un appello, abbiamo la stretta necessità e la profonda convinzione di salvare l'Italia, ha detto Monti, in modo che tutti contribuiscano a questo sforzo. Il Premier ha poi rivendicato i tre principi che hanno ispirato il provvedimento: rigore, sviluppo ed equità, e proprio su quest'ultimo punto Monti si è voluto soffermare, ma ascoltiamo Monti. Da un lato, per esempio, faccio solo esempi, nella riduzione del cuneo fiscale attraverso la manovra sull'IRAP abbiamo tenuto particolarmente presenti le esigenze di donne e di giovani, equità e anche avere incrementato la tassazione su alcuni cespiti patrimoniali espressivi di ricchezza come auto di lusso, aerei, barche e certe attività finanziarie, fino a un bollo dell'1,5% sui capitali scudati rientrati dall'estero in passato. Quanto ai contenuti, ricordiamo che il decreto vale 30 miliardi di euro lordi e permetterà al Paese di mantenere l'impegno di giungere al pareggio di bilancio nel 2013. Non contiene aumenti dell'IRPEF. Per il resto ci va dai tagli ai costi della politica al ritorno dell'ICI, dall'una tantum retroattiva sullo scudo fiscale ad una serie di tasse sui beni di lusso, auto, yacht ed aerei, corposo il capitolo pensioni, sistema contributivo per tutti, abolite le cosiddette finestre mobili, le donne andranno in pensione di vecchiaia dal 2012 a 62 anni e nel 2018 a 66, l'età di 66 anni per la vecchiaia è prevista da subito anche per gli uomini, le quote per le uscite per la pensione di anzianità sono state abolite, la rivalutazione piena rispetto all'inflazione nel 2012 sarà prevista solo per le pensioni di importo doppio rispetto alla minima. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Migliete. Arrivano i giudizi sia sul fronte politico che su quello delle parti sociali. In diretta da Roma, Elisabetta Fiorito. Si spunta l'ipotesi della fiducia parlamentare per la manovra economica per evitare le fughe e le proteste dei singoli, una manovra difficile per il Partito Democratico. A parlare in aula a Montecitorio alle 16 sarà probabilmente Dario Franceschini e non il segretario per Luigi Bersani. Le critiche sono sulla mancanza di equità, secondo i democratici, anche se Bersani ha ottenuto la tassazione aggiuntiva dello scudo fiscale che riguarda i capitali rientrati dall'estero. Ma l'umore invece per la previdenza si accelera troppo, mentre non si fa abbastanza sull'evasione e sulla tassazione dei grandi patrimoni. Sostegno del governo da parte del PDL, ma non a scatola chiusa, è quanto afferma il segretario Angelino Alfano, l'abbiamo fatto nascere, non gli toglieremo il sostegno alla prima prova. Nessun patto poi sulla costruzione di un nuovo centro tra Monti, Passera e Berlusconi, assicura Alfano, e lo stesso Cavaliere parla di misure dure. Intanto la Lega è sempre più arroscata sulle vie secessioniste, Roberto Maroni chiede al PDL di non votare la manovra perché è uno schiaffo per gli elettori di centrodestra. L'IDV si prepara a dare battaglia in Parlamento sui singoli emendamenti, mentre l'UDC dà pieno sostegno alle misure. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Questo dunque è il giudizio di parti sociali e mondo politico. Ma cosa ne pensa invece la gente di questo provvedimento? La nostra Alessandra Schepisi si è fatta un giro per Roma. Hanno fatto bene a tassare i ricchi così tanto, così almeno noi poveri finalmente possiamo diventare uguali ai ricchi. È assurdo, mi scusi. Credo che il messaggio sia ironico e debba rimanere tale, senza parole. Ma non erano necessari questi sacrifici? Tutti i sacrifici sono necessari in nome dell'equità, ma questa non è equità. Non si può essere equi nel tassare la prima casa, nel non rivalutare le pensioni. Quindi c'è un po' di delusione. Assolutamente, non solo, ma c'è proprio rabbia. Il giudizio dei cittadini è semplicissimo. Quella ha detto salvi Italia e questa ammazzi italiane. Io dovrò pagare l'ICI su una casa ereditata che è in un posto dove non vale nulla, però siccome è grande dovrò pagare l'ICI e io non ho una pensione, ho un assegno di mantenimento del mio ex marito. Non so cosa farò. È un decreto salva Italia che non salva nessuno, perché l'unica patrimoniale è sulla casa e quindi se la prendono no, quei soldi noti, quei soldi ignoti. Però ci sono alcune tasse sul lusso, sulle barche, sì, sulle auto di casa. Sulle elicotteri, ce ne stanno 100 in tutta Italia che hanno elicotteri. Questo invece è il commento del nostro Oscar Giannino. Europa e mercati brindano la manovra del governo d'emergenza ed era giusto ed aspettabile che fosse così, visto il suo ammontare oltre 30 miliardi lordi. Vediamo dal mio modesto punto di vista che cosa è positivo e che cosa invece non lo è. È sicuramente positivo che Italia, la Costa e la politica siano stati il primo punto citato dal professor Monti, ma abbiamo tutti il diritto di aspettarci di più, in primis per quello che riguarda lui, che ha due pensioni e un vitalizio mica da poco. Non bastano le province, basta lo Stato e il suo perimetro devono dimagrire molto di più, e queste sono le attese da questo governo. Secondo punto positivo, il pacchetto previdenza mi vede integralmente d'accordo per l'accelerazione della parificazione di trattamenti di anzianità rispetto alla vecchiaia e così l'accelerazione anche dell'età di vecchiaia per uomini e donne. Non avrei fatto la mancata perequazione all'inflazione per le pensioni sopra i 900 euro, una carognata, l'avrei almeno alzato l'asticella fino a 2000 euro. Bene anche complessivamente che manchi la curva maggiore sull'aliquota IRPEF delle persone fisiche, non mi convince invece aver continuato a dire che l'IVA aumenta se in caso di mancato esercizio della delega su deduzioni e detrazioni, così semplicemente si indica come fare cassa. La reintroduzione dell'ICI prima casa era, ohimè, secondo me scontata, siccome pesa 11 miliardi e si aggiunge all'aumento delle addizionali locali, all'aumento della tassa sul bollo, cioè sul conto corrente bancario, a una sleppa di tasse in più, la manovra ha però un segno recessivo che mi preoccupa. Le due cose negative, appunto, sulla crescita mi aspettavo un cambio di marcia sulla pressione fiscale, meno imposte sul lavoro e impresa, riequilibrando magari con la mini patrimoniale chiesta dalle imprese, non si è fatto. Secondo, anche dal punto di vista dell'abbattimento del debito pubblico, mi aspettavo una cessione di immobili pubblici per 20 punti di PIL. Se non lo fa il governo dei professori, chi lo fa? Solo con nuove tasse? No, credo che sia sbagliato. Comunque, la speranza è che l'Europa ci dia una mano a tutti con l'eurovertice del 9. E sotto la scure dei tagli è finita anche una figura che in realtà forse a qualcosa poteva anche servire. Sentite cosa abbiamo scoperto questa mattina. 4 giorni, tanto è durato in carica il garante per l'infanzia e l'adolescenza. Il 30 novembre la notizia accolta con favore da tutti dell'istituzione di una figura che l'Italia reclamava da tempo. Partiti politici di ogni schieramento, associazioni, sindacati, tutti avevano salutato la nomina con grande entusiasmo. A piacere tanto anche il nome prescelto per ricoprire questo incarico, quello di Vincenzo Spadafora, 37 anni, di Afragola in provincia di Napoli, già presidente di UNICEF Italia. Da tempo attento ai diritti dei bambini, soprattutto i più indifesi, rom e stranieri. Spadafora aveva anche già indicato la sua agenda, combatterò, aveva detto, innanzitutto la povertà e la disuguaglianza. E oggi avrebbe raccontato in un'intervista a Radio 24 il da farsi. Nulla di fatto. La manovra anticrisi, annunciata ieri, ha cancellato infatti la figura del garante. Senza parole è invece il commento dei suoi più stretti collaboratori. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo già accennato varie volte nel corso di questo GR24 alle reazioni dell'Europa alla manovra, ma sentiamo da Roberta Miraglia della redazione esteri del Sole 24 Ore cosa scrivono oggi i giornali stranieri. Governo tecnico alla prova della politica. I giudizi della stampa estera sulla manovra Monti convergono nel definire dure le misure adottate domenica, ma sottolineano anche il rischio che la manovra si impantani nei veti incrociati di partiti e parti sociali. Il Financial Times parla di misure di austerità e riforme economiche e ricorda che con esse si è iniziata una settimana cruciale per il futuro dell'Europa. L'americano New York Times definisce il pacchetto radicale e ambizioso e proprio per questo si chiede fino a che punto riuscirà ad avere l'appoggio del Parlamento, dove si legge molti parlamentari sono riluttanti a far passare provvedimenti che potrebbero mettere a rischio le loro possibilità di rielezione. Anche il Wall Street Journal sostiene che il Premier non ha davanti un compito facile perché, scrive il quotidiano economico americano, i partiti politici italiani sono profondamente divisi sulle ricette per condurre il paese fuori dalle secche e i sindacati potenti sono fortemente contrari a ogni radicale cambiamento del sistema pensionistico. Il francese Le Figaro, che ha il video con i singhiozzi del ministro Elsa Fornero, scrive che il piano di Monti presenta un largo ventaglio di misure che toccano tutti i settori, mentre El País dedica al premier un commento dal titolo «Il maestro della paura». Monti, sostiene il quotidiano vicino al Partito Socialista Spagnolo, è uno specialista nel maneggiare la paura alla perfezione e si legge, senza alzare il tono di voce, il capo dei tecnocrati riesce a instillare nella coscienza generale un dilemma, o io o il caos. La paura, conclude il Paese, sapientemente maneggiata, si è trasformata ieri in un poderoso antidoto contro qualsiasi protesta. La manovra Salva Italia riporta lo spread sotto i 400 punti, Piazza Affari la migliore in Europa, il giudizio di Bruxelles, Italia nella direzione giusta ma resta altro da fare. Monti ribadisce di fronte alla stampa straniera, senza il nostro pacchetto l'Italia crollerebbe come la Grecia, alle 16 si presenterà la Camera, alle 18 in Senato. E ripartiamo dall'incontro fra pochissimo, è previsto intorno alle 13.30 a Parigi, fra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Sarkozy. In diretta con noi da Parigi Marco Mustanè, buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Allora, un vertice questo considerato di importanza cruciale in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Sì, sicuramente, è chiaro che ancora una volta Francia e Germania rappresentano il nocciolo duro dell'Unione Europea, in particolare dell'Eurozona, ed è da un accordo tra questi due paesi che uscirà quello che ci si aspetta essere l'accordo di venerdì o comunque insomma nel weekend, qualora si dovesse prolungare il vertice dal Consiglio Europeo sulla riforma dei trattati e sulla revisione in particolare degli aspetti relativi alle discipline di bilancio. Ecco, ci sarà un incontro, poi una conferenza stampa, è confermato? Sì, è confermato. Inizialmente non era prevista e poi invece nel corso del weekend, evidentemente, come d'altronde era assolutamente inevitabile, si sono fatti passi avanti tra i due paesi, e quindi essendoci evidentemente un accordo almeno sulle grandi linee della riforma dei trattati, è stato deciso di fare una conferenza stampa congiunta al termine del vertice, quindi presumibilmente intorno alle 3:30. E allora staremo a sentire, grazie Marco Mussanè, staremo a sentire quali saranno le parole della cancelliera tedesca Merkel e il presidente francese Sarkozy poi nel pomeriggio. Voliamo invece in Russia per parlare del pesante ridimensionamento di Putin alle elezioni di ieri. L'ultima brutta notizia è il verdetto degli osservatori internazionali dell'OSCE, l'organizzazione incaricata di monitorare l'andamento delle votazioni in Russia. E queste elezioni, scrive oggi l'OSCE, non hanno garantito ai partecipanti un terreno di gioco uguale per tutti. Violazioni di vario genere, prima e durante le operazioni di voto, che non hanno però impedito alla protesta di buona parte dei russi di farsi sentire forte. E sarà impossibile dire con precisione a quanto sarebbe precipitata Russia Unita al partito di Vladimir Putin al netto dei presunti brogli. Quello che chiamano il partito dei ladri e degli imbroglioni è uscito comunque pesantemente ridimensionato, con un calo di consensi del 15% e 238 seggi alla Duma rispetto ai 315 che aveva prima. Putin, che ha guidato il partito fino a poco tempo fa, non potrà non tenere conto della lezione, in sostanza il voto era un referendum nei suoi confronti. A marzo lo aspettano le elezioni per il ritorno alla presidenza, la prospettiva per lui in una notte è completamente cambiata. Senza più dare per scontato l'appoggio assoluto della gente, Putin è un bivio. Può usare il voto come un'opportunità, raccogliendo la richiesta di aperture, oppure, come qualcuno teme, rafforzando ancora di più il controllo e la repressione, andando nella direzione opposta a quella indicata dagli elettori. Antonella Scotto, Radio 24, Sole 24 Ore, Mosca. Scuole autosufficienti a livello energetico e di risorse idriche per Gaza. Le ha progettate e sta per realizzarle in collaborazione con l'Agenzia dell'ONU per i rifugiati l'architetto italiano Mario Cucinella. Il progetto, finanziato dalla Islamic Investment Bank, verrà presentato lunedì alla conferenza sui cambiamenti climatici di Durban. L'intervista è di Laura Bettini. Siamo in un luogo dove non abbiamo due possibilità, o la facciamo green o la facciamo come viene, perché lì non c'è niente, no? Il valore di questo progetto è che alla fine con l'architettura diamo una risposta alla sostenibilità, ma quella vera, cioè lì non abbiamo altre possibilità. Ottimizziamo al massimo tutte le risorse naturali che ci sono, quindi dalla raccolta delle acque piovane, l'uso delle temperature del sottosuolo, il sistema della massa dell'edificio che aiuta a tenere l'edificio più fresco in estate, più caldo in inverno. Utilizziamo, ecco, come tecnologia l'unica cosa che mi sembra importante è quella proprio del sole, quindi inseriamo del fotovoltaico a film sottile in modo da poter produrre dell'energia elettrica quando manca. Il lavoro che stiamo cercando di fare era quello di trasportare all'interno il minimo delle materie, facendo invece un lavoro più attento su, per esempio, ridurre l'uso del cemento per usare più la terra, quindi mischiandola con poco cemento si stabilizza il mattone ed è un materiale che alla fine con 5% di cemento facciamo un prodotto ad alte performance. Siamo alla cronaca italiana, potrebbe essere un regolamento di conti all'origine dell'omicidio di 3 persone in Sardegna. I 3 corpi sono stati trovati questa mattina in un capannone nella zona industriale di Villa Cidro, in provincia di Cagliari. Dovrebbe tornare in libertà oggi Erika De Nardo, la ragazza protagonista con l'allora fidanzato del delitto di Novi Ligure. Proprio a lui ha scritto in questi giorni una lettera accusandolo di speculare su quanto è successo e sulla sua famiglia. Erika passerà dunque il Natale con il padre, che non l'ha mai abbandonata in tutti questi anni, nonostante tutto. Lo chiamano l'ingegnere, non solo perché lo è veramente, ma anche per il suo modo di fare, asciutto, di poche parole, sobrio, prima che sobrio diventasse una parola di moda. Quella sera, quando seppe che era stata sua figlia Erika a uccidere a coltellate la moglie Susie e il piccolo Gianluca, indossava un Loden blu. Dopo la notizia, rimane solo, come lo è rimasto per tutti questi anni, mai un'intervista, mai una parola in più. Solo, ma con Erika, una figura diabolica che quasi tutto il mondo, quello dei cosiddetti normali, avrebbe giustamente voluto cancellare, dimenticare. Lui no, io non sono solo, dice una volta davanti al carcere di Torino. Io ho Erika e devo continuare a vivere per lei. e così fa per 10 anni, nonostante la pressione dei media e la curiosità morbosa di tutti. Lui, l'ingegnere granitico e silenzioso, va avanti con quella croce che per lui non è una croce. Senza mai saltare un colloquio con Erika, risale l'abisso senza compatimenti o compiacimenti. Verrebbe voglia di stringergli la mano, di fargli complimenti, perché non è facile restare in piedi nella bufera. Ma ci guarderebbe storto, così meglio lasciar perdere. È ancora in prognosi riservata al bambino di 1 anno e mezzo ricoverato all'ospedale di Palermo. Il bambino presenta lividi nel corpo e dall'analisi è risultato positivo alla cocaina. A portarlo al pronto soccorso sono stati la madre e il convivente. Il giudice ha disposto il fermo della donna per maltrattamenti aggravati. La città dove si vive meglio è Bologna, è quanto risulta dalla classifica annuale del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. In fondo alla classifica Foggia, Caltanissetta e Napoli. Ottima invece la performance dell'Emilia-Romagna nel suo complesso. Anna Migliorati ne ha parlato con il sindaco di Bologna, Virginio Merola. Sono molto contento, anche se ho una consapevolezza che è reddito una situazione, ma è una consapevolezza che vorrei avessero tutti i cittadini. Ecco, quello che si ottiene di risultati positivi è il risultato di un lavoro di lunga lena di tutta la città, e quindi di questo dobbiamo essere orgogliosi, di ogni giunta, di ogni colore, insomma. Tra gli elementi di forza, almeno così stando alla classifica del Sole 24 Ore, cultura e welfare. Da una parte l'università, dall'altra l'attenzione all'infanzia, ai nidi in particolare, e la capacità di coniugare solidarietà e innovazione. È questa la ricetta? Rimanere in Europa significa tenere insieme innovazione e coesione sociale e continuare pure in questa crisi difficilissima a investire in cultura e scuola, ecco, è lì il futuro. Bologna è prima in classifica, ma è una regione che è tutta virtuosa, perché c'è un vero e proprio poker, dicevamo, dell'Emilia Romagna nella vivibilità. Perché si vive così bene da voi? Perché si è seminato. È molto semplice, anche se appunto è semplice dirlo, si è seminato sui servizi sociali, sui servizi educativi, sulla qualità urbana. Ed ora il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso, il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Sembra una sbadataggine, ma è un meccanismo ben escogitato da alcuni contribuenti che, aggiungendo, togliendo zeri alle fatture, tentano di aggirare il fisco. Prendiamo per esempio l'emissione di una fattura di 200.000 euro oltre IVA da parte del signor C, uno sconosciuto operatore economico, per un'attività di mediazione. Dai riscontri, la fattura emessa dal signor C, che dichiarava un volume d'affari e un reddito modestissimi, è annotata nel registro IVA con l'importo di 200 euro, importo che naturalmente è quello riportato nell'originale della fattura in possesso dello stesso signor C che l'aveva emessa. In pratica esistono due versioni della stessa fattura, una con l'importo di 200.000 euro contabilizzata dalla società che aveva utilizzato la prestazione e una con l'importo di 200 euro contabilizzata dall'emittente. Si tratta di un errore di compilazione dell'elenco da parte della società cliente? Dall'incrocio di dati contabili, scritture, dichiarazioni presentate, fatture emesse, dati di clienti e fornitori e con l'aiuto della tecnologia, questo e altri casi di fatture per operazioni inesistenti potrebbero essere scoperti, mentre spesso si conta sull'assenza e sulla difficoltà dei controlli. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il lunghissimo weekend di calcio che ha riportato la Juventus in testa alla classifica non si è ancora concluso. Questa sera infatti c'è Lazio-Novara, qui accanto a me Carlo Genta. Ciao Piera, buongiorno a tutti. Beh, mi sembra che 4 giorni per giocare una giornata di campionato siano abbastanza. Si è cominciato venerdì sera con Genoa-Milan e si chiuderà appunto stasera con Lazio-Novara, questa 14ª giornata che ha riportato la Juventus in testa alla classifica. Juventus che ieri, non senza soffrire, ha battuto 2-0 al Cesena e dunque ha di nuovo scavalcato Milan e Udinese. Classifica Juventus 29, Milan e Udinese 27. La Lazio che gioca stasera ha la possibilità di allungare sul Napoli, Lazio 22, Napoli 20. Questo ha detto il weekend di campionato, che ha riservato anche un bello spavento per Del Piero, ferito alla testa dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo ieri, notte in ospedale, è stato dimesso stamattina, nessun problema, nessuna complicazione, un paio di giorni di riposo, un bel bernoccolo con 8 punti di sutura per lui. Piero. Da domani è già tempo di Champions League per il Milan. Da domani è già tempo di Champions League per il Milan, che gioca sul campo del Viktoria Pilsen, una partita che però ai rossoneri non ha nulla da dire o da dare. Il Milan è già secondo nel suo girone, dietro al Barcellona, pure già qualificato, quindi già tutto deciso. Sarà molto più importante invece il mercoledì, non tanto per l'Inter che riceve il CSKA di Mosca, quanto per il Napoli che deve andare a Villarreal a vincere per conquistare la qualificazione. Dunque calcio senza respiro, Piera. Grazie, grazie a te Carlo Genta. Ora il grande fotografo Steve McCurry è in mostra al Macro Testaccio di Roma fino al 29 aprile. Fra i suoi scatti più noti, quello di una ragazza afghana dai bellissimi occhi verdi spaventati, che fu pubblicato, ricorderete, dal National Geographic. Il curatore della mostra, Fabio Novembre, al microfono di Adriana Fracchia. Dovendomi confrontare con una mole di lavoro enorme, cioè stiamo parlando di decine di migliaia di scatti realizzati in 40 anni di carriera da Steve McCurry, riassumere il tutto in poche centinaia, perché poi alla fine sono 245 scatti, è stato veramente difficile. Ci voleva un'idea. L'idea di fondo è questa: l'umanità di cui parla Steve è un'umanità in cui lui insegue la debolezza. Ecco, l'umanità di Steve veramente è un'umanità vera. Le sue foto sono foto in cui ci sono i deboli del pianeta, però con quegli occhi iniettati di una coscienza e di una dignità che nelle plasticose immagini che ci circondano non esistono. Quindi quest'uomo veramente posa lo sguardo in luoghi che tutti vogliamo ignorare, che tutti vogliamo tenere lontani dai nostri occhi. Dovendo poi quindi trovare un criterio espositivo, ho deciso intanto di non fare niente di canonico, quindi di non seguire né una scansione spaziale né temporale. E questi 245 immagini sono come l'album che racconta la vita dell'umanità, cioè da quando si nasce a quando si muore. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberto Scaltritti. Prossimo GR24 alle 14. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.